Letture di Radio 24. Anni, direttore del magazine Vice Italia e fondatore della rivista letteraria The Millennial Review, Tim Small è un milanese che all'età di 17 anni si è trasferito a York, in Inghilterra. In un articolo pubblicato sull'ultimo numero del mensile Il, Tim racconta l'incontro-scontro di civiltà che ha dovuto affrontare lasciando la metropoli lombarda per andare a vivere in una cittadina a nord dell'Inghilterra. Nel 2002 a Londra, camminando per Oxford Street in compagnia di un gruppo di amici inglesi, assistetti a un loro gioco. Probabilmente si erano dimenticati della mia mezza nazionalità. È abbastanza difficile per un inglese pensare che un tizio chiamato Tim Small sia italiano. Il gioco si chiamava Gay or Italian e consisteva nell'indovinare se i vari gruppi di turisti maschi lampadati che camminavano verso di noi con indosso magliette aderenti rosa o jeans slavati e strappati o parecchio gel nei capelli, fossero gay o italiani. Appena capito il gioco, iniziai a vincerle tutte. Era facile, gli italiani gesticolavano di più. La medicina generica antidolorifica in Italia più comunemente usata è la tachipirina. Il principio attivo della tachipirina è il paracetamolo. Ogni pastiglia ne contiene 500 mg. Il foglietto illustrativo consiglia all'uomo adulto di assumere non più di 2 pastiglie al giorno. In Inghilterra il corrispettivo della tachipirina, il Panadol Extra, consiste di 500 mg di paracetamolo più 100 mg di codeina, e il foglietto illustrativo consiglia di prenderne 2 alla volta, 4 volte al giorno, e di non prenderne più di 8 al giorno. Se prendi 2 tachipirine di fila, in Italia ti guardano come un pazzo drogato. Quindi, delle due, l'una. O i sofisticati cittadini italiani che vivono in un paese che da 3.000 anni è disboscato e pieno di strade e acqua pulita, e pieno di posti dove mangiare ottimo cibo cotto al forno, hanno con il tempo sviluppato degli stomaci talmente raffinati che sono troppo poco resistenti alle medicine rispetto agli inglesi, oppure il Ministero della Salute inglese odia i suoi cittadini. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Tim Small, Non correre che sudi, dal numero di settembre del magazine Il.